Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Anima mia. È l'arte di mettere l'anima mia in versi, quella che ho appreso. Di parole sono poche, ma quando scrivo riverso ciò che sento, ciò che provo, in versi sciolti, sciogliendomi come burro al sole. Poesia, poesia, poesia, sei lo sfogo per l'anima mia e per mille altre cose io ti preferisco alla semplice parola detta, che altro non fa se non perdersi nel vento, nel tempo.